Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Regionali, Bonaccini batte la candidata leghista con 8 punti di distacco, netta vittoria del centrodestra in Calabria, Salvini il cambio è solo rinviato. Zingaretti ringrazia le sardine, PD primo partito nelle due regioni, crollo del Movimento 5 Stelle, Crimi ora avanti col governo pancia a terra. Oltre 2700 contagi, 80 vittime per il coronavirus in Cina, in Italia da oggi numero verde del Ministero della Salute. Mondo dello sport in lutto per la morte di Kobe Bryant, in tutto 9 le vittime nello schianto del suo elicottero. Trionfo per Billie Eilish ai Grammy Awards, la 18enne pop star di Los Angeles, miglior brano, album e artista esordiente. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi e poi i nostri approfondimenti dalle 13.15. Cominciamo naturalmente con i risultati delle elezioni regionali. In Emilia-Romagna si conferma il centrosinistra con Stefano Bonaccini che ha ottenuto il 51,4% battendo nettamente la candidata della Lega Lucia Borgonzoni col 43,6, terzo a grande distanza il candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini, fermo al 3,5%. In Calabria invece vittoria per il candidato di centrodestra Iole Santelli di Forza Italia al 55,4% contro Pippo Callipo del centrosinistra che è rimasto fermo al 30,1%, al 7,3% Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle. Un voto che era molto atteso anche per le sue conseguenze sul piano nazionale. Il governo tira un sospiro di sollievo, anche se il crollo dei 5 Stelle rafforza l'alleanza tra Palazzo Chigi e PD. Per Andrea Orlando il risultato modifica l'asse politico dell'esecutivo. Al Nazareno dicono chiaramente che Luigi Di Maio si è dimesso. Matteo Salvini ha perso, il 4 marzo è archiviato, il PD con Nicola Zingaretti è tornato. Lo stesso segretario Dem ammette la fine del sistema tripolare e ritorna ad un classico scontro centro-sinistra-centro-destra. Così Maurizio Martini a 24 mattino. Questi dati confermano che il lavoro che il Partito Democratico ha iniziato paga e adesso il nostro compito è quello di rafforzare questo stile anche nella sfida di governo. Da parte della Lega Matteo Salvini dice che rifarebbe tutto, anche suonare al citofono al presunto spacciatore tunisino. Il governo, secondo il leader della Lega, è ancora più in bilico. No, non so cosa faranno tra 5 Stelle e Partito Democratico. È chiaro ed evidente che c'è un partito che è maggioranza in Parlamento e ormai è estrema minoranza nel paese. Soddisfazione in Forza Italia per la vittoria eclatante di Iole Santelli in Calabria, che fa ben sperare per gli equilibri dell'alleanza di centrodestra nel sud. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Emilia-Romagna Simone Benini fermo al 3,4% e la lista al 4,7%. In Calabria Francesco Aiello che raccoglie appena qualche voto in più del civico Tanzi attestandosi al 7,3% mentre la lista precipita al 6,2%. Un crollo senza precedenti, quello del Movimento 5 Stelle in entrambe le regioni, numeri che impongono una riflessione che di certo ridisegnano i rapporti di forza all'interno del governo. Risultati inferiori alle aspettative ammette senza giri di parole il reggente Vito Crimi, aggiungendo però che il Movimento ha sempre raccolto alle regionali risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali. Crimi invita comunque a restare uniti, a non lasciarsi irretire da facili sirene e per quanto riguarda il governo a continuare a lavorare pancia a terra perché il percorso deve proseguire. Non confondiamo i territori con il governo, dice anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Laura Agea. In Parlamento abbiamo il 33%, i rapporti sono chiari, ma non tutti la pensano così. Il disastro è colpa unicamente nostra, scrive il presidente della Commissione per le politiche europee della Camera Battelli, mentre l'espulso Paragone parla di movimento morto, soffocato nella scatoletta di tonno e annuncia ne fondo uno io. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dei risultati delle elezioni regionali parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno con i nostri inviati in Calabria, in Emilia-Romagna con Alberto Orioli e Federico Pizzarotti. E invece riparte questa settimana l'azione del governo per quanto riguarda la riforma delle pensioni e il primo passaggio sarà il confronto con i sindacati. Il governo riapre il dossier pensioni. Questa mattina il ministro del lavoro Nunzia Catalfo incontrerà i sindacati per dare il via al confronto sulla riforma del sistema previdenziale. L'obiettivo è trovare un'intesa su un nuovo sistema flessibile per l'uscita dal lavoro, uscita ora fissata a 67 anni dalla riforma Fornero e addolcita per 3 anni da quota 100, una misura che scadrà il prossimo anno e decisa dal primo governo Conte. CGIL, CISL e UIL si presenteranno all'appuntamento con una proposta unitaria che fissa l'uscita dal lavoro a partire da 62 anni senza penalizzazioni e per chi ha 41 anni di contributi i sindacati pensano a un addio al lavoro svincolato dall'età anagrafica. La riforma immaginata dai sindacati è considerata però troppo costosa dal Ministero dell'Economia. Il governo non ha ancora un piano pronto da mettere sul tavolo, puntualizza il Ministero del Lavoro. Si traccerà la riforma considerando il contributo dei sindacati e di 3 commissioni di esperti. L'incontro di oggi servirà a fissare l'agenda di lavoro su 4 temi principali messi sul tappeto dal sindacato, ossia pensione di garanzia per i giovani, flessibilità in uscita, previdenza complementare e rivalutazione delle pensioni in essere. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'epidemia di coronavirus. È stato potenziato in Italia da oggi il numero verde 1500 da parte del Ministero della Salute per fornire gratuitamente ai cittadini tutte le informazioni in italiano, in inglese e anche in cinese. Pechino intanto ha deciso di prorogare al 2 febbraio le festività del Capodanno cinese per limitare gli assembramenti e la diffusione del contagio. Sono circa 3.000 i casi confermati di coronavirus in Cina e il numero dei morti è salito a 81. Pechino ha deciso di prorogare al 2 febbraio le festività del Capodanno cinese, che genera lo spostamento di milioni di persone per limitare gli assembramenti e la diffusione del contagio. La Commissione Sanitaria Nazionale Cinese ha disposto inoltre l'invio di altri 959 medici e paramedici a Wuhan, focolaio dell'epidemia. In Italia il Ministero della Salute ha potenziato da oggi il numero verde 1500, che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni in italiano, inglese e cinese sul coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24 e sempre al Ministero si è svolta una sessione di formazione per una nuova equipe di medici e personale sanitario che rafforzerà ulteriormente i controlli negli aeroporti e che integrerà lo staff del numero verde. Anche la sala operativa della Farnesina sta lavorando al piano di evacuazione degli italiani presenti in Cina. Rosana Magnano, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Con la cronaca veniamo in Italia, a Napoli, dove la DDA ha emesso 8 misure cautelari nei confronti di altrettanti carabinieri coinvolti in un presunto giro di corruzione. Arresti domiciliari per 5 carabinieri a Napoli. Nei confronti di altri 3 militari è scattata la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per 1 anno. È la svolta di un'indagine condotta dallo stesso nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinato dal pool anticamorra della Procura. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione, omissione di atti d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. I fatti contestati sono relativi al periodo in cui tutti gli 8 carabinieri erano in servizio presso la tenenza di Sant'Antimo. Nel giugno del 2018, sempre nel napoletano, vennero arrestati altri 3 carabinieri. Le accuse in quel caso furono di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci occupiamo della giornata della memoria. Sono 200 i sopravvissuti che sono presenti oggi ad Auschwitz nella giornata della memoria per le celebrazioni a 75 anni dalla liberazione, come sapete, del campo di concentramento da parte dell'Armata Rossa. Molte le celebrazioni anche nel nostro paese, sentiamo. La memoria delle vittime innocenti di quell'atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano mai più quegli orrori. Parole forti e chiare quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Giorno della Memoria, in cui si celebra la liberazione da Auschwitz-Birkenau, il campo di sterminio nazista dove morirono più di 1 milione di persone. Ma Mattarella usa parole dure anche nei confronti del fascismo italiano. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani e ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all'acqua di rose. Fu feroce e spietata, e la metà degli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio fu catturata è avviata la deportazione dei fascisti. E stasera Mondovì si tiene una fiaccolata in solidarietà ad Aldo Rolfi, figlio della partigiana Lidia Beccaria Rolfi, la cui memoria è stata oltraggiata venerdì dalla scritta in tedesco «Qui ebrei», comparsa su quella che è stata la sua abitazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 10 minuti, siamo alle notizie sportive con Carlo Genta per commentare una notizia che non avremmo mai voluto commentare. Carlo? Beh sì, è chiaro che le notizie non sono tanto sportive quanto di vita, che è anche vita di tutti noi, perché Kobe Bryant è uno che è entrato nella vita anche di quelli che non seguono abitualmente lo sport. La notizia la sappiamo da ieri sera e quindi quella è cronaca, il resto è emotività, perché tutto il mondo dello sport, ma non solo quello dello sport, quello che è successo ieri a Los Angeles, lo ricordo, in una sorta di settimana santa dello sport americano, perché è quella che conduce al Super Bowl, l'evento più visto d'America la prossima domenica. Beh, immagino che la parola shock non renda neanche bene l'idea di cosa sia oggi l'America. Ne parliamo ovviamente collegandoci con gli Stati Uniti, con Simone Sandri. Ci sarà Gigi D'Antoni, giocatore italiano tra i più rappresentativi che ha giocato nell'NBA, Mario Boni che lo ha conosciuto da bambino, perché Kobe era un po' la leggenda di casa nostra, dato che è cresciuto in Italia dai 5 ai 13 anni, ha fatto le scuole in Italia, parlava l'italiano meglio di me e te, quindi lo sentivamo un po' come il nostro eroe nell'NBA. Beh, rimane tutto questo, cioè rimangono queste emozioni di cui parleremo. Grazie Carlo Genta, dunque una ampia pagina di appassionati di basket e di sport per ricordare chi era Kobe Bryant. Grazie Carlo, appuntamento con te naturalmente a tutti i convocati dopo il GR del 14. Sempre dall'America e sempre da Los Angeles invece arriva una bella notizia di una giovane pop star americana, Billie Eilish, che ha ottenuto molte soddisfazioni, lei e i suoi fan, ai Grammy Awards. Ne parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno. Facciamo una pausa, 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare le notizie di oggi, che naturalmente sono molto concentrate per quanto riguarda l'Italia sui risultati di queste elezioni elettorali in Emilia Romagna e in Calabria. Ne parleremo tra poco con Alberto Rioli, con i nostri inviati e con Federico Pizzarotti. A tra poco. Effetto Giorno. Regionali, Bonaccini batte la candidata leghista con 8 punti di distacco, netta vittoria del centrodestra in Calabria, Salvini il cambio è solo rinviato. Zingaretti ringrazia le sardine, PD primo partito nelle due regioni, crollo del Movimento 5 Stelle. Oltre 2700 contagi e 80 vittime per il coronavirus in Cina, in Italia da oggi numero verde del Ministero della Salute. Corruzione e rivelazione di segreti, arrestati 5 carabinieri a Napoli, altri 3 sospesi. Trionfo per Billie Eilish ai Grammy Awards, la 18enne pop star di Los Angeles, miglior brano, album e artista esordiente. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. In studio con noi Alberto Rioli. Ciao Alberto, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Vice direttore del Sole 24 Ore, per commentare questi risultati elettorali. Alberto, un flash così, a caldo erano molto attesi questi risultati. 30 secondi e poi andiamo a Bologna per le ultime notizie dalla regione più importante. A caldo, un flash, ha vinto la democrazia di popolo, delle persone, le sardine hanno avuto un ruolo enorme, secondo me il risultato maggiore è questo. Si è fatta strada l'idea che forse funziona ancora un meccanismo di maggioritario con una corsa a due, che è il contrario del dibattito pubblico di adesso, e chiaramente un candidato forte dell'area del PD, che ha un po' coperto il suo marchio, ha però trascinato anche il partito di Zingaretti. Ecco, noi anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Pizzarotti è molto attivo naturalmente nell'ambito del centro-sinistra anche lui. Prima però colleghiamoci subito con Raffaella Calanda, che si trova a Bologna. Raffaella, buongiorno. Dovrebbe iniziare, Alessio, proprio adesso la conferenza stampa di Bonaccini, giusto? Sì, giusto, io infatti sono a Casalecchio, dove stanotte c'era anche appunto Pizzarotti, dove si attende a breve l'arrivo del riconfermato governatore Stefano Bonaccini per una nuova conferenza stampa. Di sicuro in questo momento, passata la grande paura per il popolo della sinistra dell'Emilia Romagna, oggi è il giorno della ripartenza, dal piacere della ritrovata partecipazione, come ha sottolineato anche Alberto Orioli, quella che infatti ha riempito piazze e urne col record proprio qui a Bologna, dove il Dem Bonaccini ha doppiato la leghista Lucia Borgonzoni. In regione il presidente prende più voti dei partiti, un risultato dovuto alla buona amministrazione e in parte anche al voto disgiunto, come lo stesso Bonaccini ha confermato stanotte. Il suo discorso è stato un messaggio anche al PD nazionale e vedremo cosa riconfermerà e cosa dirà a breve, anche nella soddisfazione dei suoi elettori che abbiamo avvicinato, sentiamoli. C'era la volontà da parte del popolo emiliano di rimettere un po' a posto le cose, perché nella Lega ci sono dei segnali anche potenzialmente molto pericolosi. Futuro in Emilia Romagna è già presente da tanto tempo, ci confermiamo una regione piena di valori che sa metterli in pratica a dispetto di quanti vogliono criticare e ribaltare. Il Cardini vi hanno aiutato? Certamente sì. Nella lettura poi del dato elettorale complessivo, il centrosinistra si consolida soprattutto nelle principali città, vince anche nei luoghi più simbolici di questa campagna elettorale, dal quartiere Pilastro, quello del citofono per intenderci, a Bibbiano dell'inchiesta sui bambini. La geografia politica dell'Emilia Romagna si consolida rispetto alla sua tradizione ed è la stessa leghista Lucia Borgonzoni che ribadisce l'intenzione di portare avanti 5 anni di opposizione a confermare le grandi differenze tra città e campagna. Sentiamola. Come si vede dall'analisi del voto, ovvio è che ancora abbiamo dei problemi a riuscire a intercettare quello delle grandi città. In generale nelle province ovviamente abbiamo un voto diverso rispetto alla città, cosa su cui cercheremo di capire il perché. Ovviamente adesso vi aggiorneremo su quello che Bonaccini dirà a breve. Per ora da Casalecchio è tutto. Grazie Raffaella Calanda. Sì, vediamo se riusciamo a darvi in tempo reale poi le prime dichiarazioni del confermato presidente della regione Bonaccini. Pizzarotti, al di là del derby tra Bonaccini stesso e la Borgonzoni, diciamo il Movimento 5 Stelle è arrivato terzo con un risultato addirittura forse inferiore alle attese. Era immaginabile che ci fosse un risultato molto basso, perché la polarizzazione tra i due candidati, centrodestra e centrosinistra, era inevitabile. Lei viene dal Movimento 5 Stelle, ormai da tempo abbandonato, è attivo nel campo del centrosinistra con la sua lista, ma come si spiega questo tracollo vero e proprio dei 5 Stelle in Emilia Romagna? Ma allora intanto fatemi dire che il successo di Bonaccini parte anche e soprattutto dalla scelta della persona, dalla scelta del programma, dall'aver creato una coalizione coesa che ha lavorato tutta insieme al risultato, cosa che tante volte nel centro-sinistra pieno di distinguo non vediamo, e questo penso che sia stato determinante. In questo io ho sempre detto, quando c'era all'inizio il dibattito del i 5 Stelle, no, come è stato in Umbria, dovranno far parte della coalizione, ho detto secondo me saranno ininfluenti, forse esatto, sotto anche quello che poteva essere un risultato intorno al 5% potrebbe essere previsto, comunque molto sotto al risultato del 2010, va a sancire un'iperbole che da un risultato straordinario, la non capacità di organizzazione, le divisioni interne, il non voler ascoltare e far crescere la base, perché era importante solamente andare in televisione, alla lunga porta a questi risultati. Grazie Pizzarotti. Alberto, anche tu sul Movimento 5 Stelle, qual è la causa secondo te di questa sconfitta? La parabola che dice Pizzarotti, ma c'è anche forse un'esperienza di governo che non è andata come si aspettavano gli elettori? Beh, io credo che alla fine il test della competenza abbia fatto premio anche nella voce degli elettori e nella Vox Populi, chiamiamola così, che poi era quella che aveva portato con grande aspettativa e grande speranza proprio da Bologna il Movimento dei 5 Stelle a diventare la forza rivoluzionaria che avrebbe dovuto cambiare la politica. Quella politica non è cambiata, sono stati raffazzonati alcuni provvedimenti simbolo che poi non hanno portato i risultati che promettevano, anzi forse il contrario. Ma io credo, al di là poi delle cose tutte politiciste, diciamo, la cosa importante importante è che probabilmente è venuto allo scoperto un diverso modo di intendere il come fare politica. Le sardine hanno proposto un problema di metodo, hanno chiesto una politica della competenza, degli argomenti, dell'approfondimento e dei toni pacati, della volontà di approfondire, della conoscenza e della saggezza, si direbbe. Dall'altra parte ci sono i toni esagitati del presentismo ad uso dei social, di una politica sempre contingente che, per l'appunto, essendo tale, ci mette poco anche a evaporare, come è stato dimostrato in questo test elettorale molto importante che parte dall'Emilia. Ecco, ma analizzando questo risultato proprio dal punto di vista della Lega e di Salvini, si era detto un referendum su Salvini ha oscurato sicuramente la Borgonzoni volutamente, adesso questo referendum si può dire che è stato perso, diciamo, in senso tecnico, ma come vedi dal suo punto di vista il bicchiere mezzo vuoto per via di questa sconfitta o mezzo pieno per aver dimostrato che l'Emilia Romagna è contendibile, per aver riportato il centrodestra in partita in Emilia e comunque adesso ha di fronte a sé una opposizione, ancora un governo che non sembra, diciamo, fortissimo e che può giocare a favore di Salvini nel prossimo anno. Se devo schematizzare e sintetizzare la seconda che hai detto, come dire, anch'io penso che sicuramente Salvini è stato sconfitto perché ha polarizzato su di sé, l'ha fatta trasformare in un referendum questa consultazione e ha giocato l'all-in, come direbbero i pokeristi. Gli è andata male, naturalmente ha perso, però è anche vero che chi ha vinto non può non farsi carico dell'idea che in una regione che prima era monocolore e tradizionalmente esprimeva un'idea, un ceto sociale omogeneo e che si compattava intorno a un'idea di paese, un'idea identitaria, un'idea di valori, è cambiata, cioè sostanzialmente c'è un'Emilia Romagna divisa praticamente in due, tra l'altro una grossa distanza tra i grandi centri e le periferie, e questo non deve essere sottaciuto e non deve essere un concetto banalizzato. Alcune delle istanze che la Lega, vellecando in modo anche molto sbagliato spesso gli istinti più bassi della pancia, diciamo, dell'elettorato, vanno colte anche da parte di chi ha vinto. Io credo ci sono alcuni grandi temi bandiera che probabilmente la sinistra, proprio magari a partire da un laboratorio virtuoso come l'Emilia, deve imparare a declinare abbinandola ai suoi valori, al suo modo di intendere il fare politica e di intendere la gestione della cosa pubblica. Federico Pizzarotti, lei vede, se ne era molto parlato, di possibili ricadute in campo, diciamo, nazionale, la politica nazionale, soprattutto nel caso di vittoria del centro-est in Emilia ci sarebbe stato un vero e proprio terremoto immaginabile. Adesso lei vede delle conseguenze nel campo del centro-sinistra, un avvicinamento ulteriore tra il Partito Democratico e i 5 Stelle, oppure no? Ma io spero decisamente di no, non vedo, viste le proiezioni, cosa avrebbero da guadagnare. Io mi aspetto che, come ha annunciato Zingaretti qualche settimana fa, un'ulteriore apertura rispetto alle sardine, rispetto, diciamo, a un ricambio generazionale del centro-sinistra, perché uniti si vince, servono messaggi chiari, serve un progetto per l'Italia, serve un'idea d'Italia in cui, come dire, andare a inserire le azioni di governo. Diverso è le azioni giorno per giorno, che possono essere giusto o sbagliate, ma se non hanno una visione d'insieme non si capisce qual è l'obiettivo. Quindi se si andrà in questa direzione, penso anche che si potrà andare a erodere quello che è il grande vantaggio di Salvini, che oggi, non avendo dall'altra parte un interlocutore forte e pesante, tanti voti sono anche mancati, secondo me, dalla mancata offerta del centrosinistra. Se tornerà a fare un'offerta coerente, seria, non come dire urlata, non come dire renziana, tra virgolette, penso che si tornerà ad avere un bipolarismo, si tornerà ad avere due campi contrapposti equivalenti. Grazie Federico Pizzarotti. Rimaniamo in Emilia Romagna e sentiamo questo servizio sul risultato di Bibbiano, che possiamo prendere così a pietra di paragone di un certo modo di fare politica di cui Alberto Rioli parlava poco fa. Ebbene, in questo caso il Partito Democratico, che era comunque nel mirino delle critiche, perché c'è un sindaco comunque indagato per questa vicenda, ha ottenuto un risultato sopra la media regionale. Sentiamo. Il piccolo comune di Bibbiano, 10.200 abitanti in provincia di Reggio Emilia, conosciuto in tutta Italia suo malgrado per l'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti che porterà presto a processo 26 persone, ha respinto la centralità politica e mediatica che Salvini ha dato da mesi alla vicenda, fino ad arrivare a chiuderci la campagna elettorale giovedì scorso con il manifesto Giù le mani dai bambini, con le sardine a contromanifestare una piazza più in là. A Bibbiano il centrodestra di Salvini ha ottenuto esattamente esattamente gli stessi voti delle europee di un anno fa, il 29,5% la Lega e il 37,4% la coalizione, mentre il centro-sinistra ha conquistato molti voti. Il Partito Democratico dal 35,6% al 41%, la coalizione dal 43% delle europee al 56,7% di Bonaccini alle regionali. Un dato alto anche rispetto alla media della provincia di Reggio Emilia, dove Bonaccini ha ottenuto un punto e mezzo in meno. Insomma, i cittadini di Bibbiano hanno respinto con forza l'assalto di Salvini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alberto Rioli, al di là del caso di Bibbiano, c'è invece il risultato della Calabria importante, che conferma quello che dicevi tu poco fa, cioè che il bipolarismo in qualche modo si rinforza, si riaffaccia, perché in Calabria ha vinto un candidato di centrodestra, di Forza Italia, che addirittura sembrava fuori dai giochi, invece in questo caso riesce a fornire il candidato. Sentiamo velocemente la corrispondenza di Straticò da Reggio Calabria e poi il commento di Alberto Rioli. Il rapporto con Matteo Salvini è ottimo, lo ha sottolineato più volte la neopresidente della Regione Calabria, Iole Santelli, di Forza Italia, che ha tenuto la sua prima conferenza stampa anche se si ritrova senza voce. Con al suo fianco l'europarlamentare Antonio Tajani, Iole Santelli ha detto: difenderò i calabresi, puntando tutto sulla legalità e sulla trasparenza. Documenterò ogni incontro pubblico o privato, ha detto ai giornalisti. Lo dico ufficialmente, sarò io a mettere le telecamere e il sistema di videoregistrazione nella mia stanza, nella mia macchina. Chiunque parla con me saprà di essere registrato. I 25 punti di differenza tra il suo centrodestra e il competitore del centrosinistra assicurano una solida maggioranza, utile, come ha detto la neopresidente, per cambiare finalmente le cose, anche se ancora la partita degli assessori resta completamente aperta, ma si tratterà di una scelta che premierà la competenza, ha assicurato. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Alberto, cosa significa questo risultato invece in Calabria? Ma sicuramente significa che il centrodestra, quando riesce a essere compatto e lavora remando in una sola direzione, effettivamente porta ancora a casa dei risultati. Ancora Forza Italia ha qualcosa da dire, evidentemente, e questo è qualcosa che all'interno dello schieramento, che vede anche Salvini e che ha egemonizzato l'immagine dell'idea del centrodestra, bisogna rivedere qualcosa. Probabilmente anche all'interno del centrodestra si rivedranno i rapporti di forza, così come credo verranno rivisti sicuramente all'interno della coalizione di governo, soprattutto tra PD e 5 Stelle. Però l'altra cosa che ci dimostra la Calabria è che il centro-sinistra ha perso perché ha disperso le liste, naturalmente non ha organizzato un fronte comune su una candidatura unitaria, magari recuperando anche i 5 Stelle. Quindi questo dimostra che il tripolarismo liquido a cui ci hanno abituato, soprattutto con la narrativa che ha portato avanti Di Maio, probabilmente è arrivato alla corda. Il problema è che stiamo pensando di costruire un'Italia, elettoralmente parlando, del tutto proporzionale come era la Prima Repubblica. Questo è totalmente in contraddizione rispetto al segnale che ci è arrivato in questi giorni. Ultima cosa, evidentemente anche il calcolo molto volgare di chi pensava che magari con il reddito di cittadinanza, con un po' di prebende date soprattutto nel mezzogiorno, avrebbe potuto consolidare l'elettorato, non è passata, e questo fa onore all'elettorato, diciamo la verità. Grazie Alberto Rioli. 13:28 minuti è tutto per questa pagina dedicata ai risultati delle elezioni elettorali. Per i vostri commenti 349-238-6666, ci risentiamo tra poco. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Buongiorno. Buongiorno. Questa Mini ha il Comfort Access come optional? No. E i sensori di parcheggio posteriori? No. E il Mini Connected Media? Nada. Almeno il climatizzatore? Quello bizona automatico? Sì. No. Il Comfort Access? L'ha già chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini su mini.it. Se sei un imprenditore o un libero professionista, Fatture in Cloud è il software che fa per te. Fatture in Cloud è molto più che fatture elettroniche e ti permette di gestire anche i preventivi, registrare gli acquisti, mandare i solleciti in automatico e molto altro, in qualunque situazione, anche dallo smartphone. E dando accesso al tuo commercialista, risparmi un mucchio di tempo. Registrati su fattureincloud.it. Ha un prezzo piccolo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Radio 24 e Il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'approfondimento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live. E dalle 18.30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa, Modena, il 29 gennaio presso la concessionaria Renault Franciosi. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. Effetto giorno. Regionali, Bonaccini vince con 8 punti sulla candidata leghista, netta vittoria del centrodestra in Calabria. Salvini, il cambio è solo rinviato. Zingaretti ringrazia le sardine, crollo del Movimento 5 Stelle, ma Crimi ora avanti col governo pancia a terra. Oltre 80 vittime per il coronavirus in Cina, in Italia da oggi numero verde 1500. Mondo dello sport e lutto per la morte di Kobe Bryant, in tutto 9 le persone coinvolte nello schianto del suo elicottero. Trionfo Billie Eilish ai Grammy Awards, 5 premi per la 18enne pop star di Los Angeles. minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. E allora vi facciamo sentire questa 18enne pop star di Los Angeles, Billie Eilish, che ha letteralmente spopolato ai Grammy Awards. È stata la cantautrice 18enne di Los Angeles, Billie Eilish, a fare incetta di premi alla 62esima edizione dei Grammy. Con 6 nomination nelle principali categorie di quelli che sono considerati gli Oscar della musica, allo Staples Center di Los Angeles la cantautrice più giovane di sempre, poiché il record precedente appartiene a Taylor Swift, vincitrice a soli 20 anni, ha ottenuto ben 5 Grammy. Uno nella categoria miglior artista esordiente, uno per il miglior album dell'anno con When We Fall Asleep, Where Do We Go, uno per la miglior canzone dell'anno e uno per la miglior registrazione dell'anno con Bad Guy. L'album dell'Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go, ha vinto poi anche un Grammy nella categoria minore di Best Pop Vocal Album. Delusione invece per Andrea Bocelli, l'artista italiano, con il suo lavoro intitolato Sì, era candidato nella cinquina dei Best Traditional Pop Vocal Album, in compagnia di Barbara Streisand, Michael Bublé, John Legend ed Elvis Costello, ma il Grammy lo ha vinto Costello. A presentare la cerimonia la cantautrice Alicia Keys, che ha invitato tutti a fare un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant, morto ieri proprio a Los Angeles con la figlia tredicenne in un incidente in elicottero. Earlier today, Los Angeles, America and the whole wide world lost a hero. Ha detto Alicia Keys, poche ore fa Los Angeles, l'intera America e tutto il mondo hanno perso un eroe. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.